metti prima la berra, capisci? Quando fai la berra la viera per fare la berra e tutti gli e fai la veloce. Mi ha dato per pure vero. Sì, quello svaricciatore che ha tenuto la moticheggia e... Sì, faccela pulire pure, sì. Sì, proprio sì, mi ha dato un'idea, eh. Allora, basta, domani me lo comporete, me lo preparo, mi preparo tutto. Da Carboni lo compri, io l'avevo comprato da Carboni. Dal legno c'è però la marca di Trinity, non si valuta. Per via del carbone, che è buono, glielo dici, io ti ho preso, per me c'è un cancello, il mio corre lo sverniciatore, ti lo vai piga, che non è mai trattato. E te lo fai spiegare, che poi già c'è scritto nel baratro, come si adopera. E che è il carbone? Questo che è più sotto di cose, della barattina di Cesaraccio? No, Carboni è in Viale Portatore, dove c'è il fornitore, che all'angolo vai rubato. No, visto primo laggio qui. Lo primo cagati pare da via San Paolo, sulla destra. Lì entra nel fornitore, c'è un cancello, alza la bassa in alto, perché tu Carboni entra dentro quel cancello e lì proprio. Parcheggi, lì c'è la parramenta, il mannaburo, è fortunato e non lo usare. Non faccio parte ma scusate. A San Reggio su così non ti farà una cosa per dire di batteria e roba del genere, no? Più avanti devi entrare nel dopo il rifornitore proprio. Mentre nel rifornitore, il primo rifornitore che c'è scendendo da via San Paolo, no? Da là verso qua. Sulla destra, entri lì, come entri, vedi il cancello, c'è dentro Carboni, in alto per scritto Carboni, parlamento a Carboni. Entri lì per farci chiedere, ma non vuoi mettere il parlamento, va tutto. Come sappiamo che vengono questi parlamenti? Cattu che devo finire a soffrire giù, dice lo sverniciatore, cattu che devo soffrire giù per fare il lavoro, per trovare un fede fai. Cattu che devo rischiare di questa cosa, grazie. Ci sono, io mi ricordo, barato, da mezzo chilo e da un chilo, ma per fare il cancello penso che mezzo chilo ti basta, va bene che non si guasta, questa. La vetrata a rubare i bari della veranda, non so di ferro. Allora, lì c'è tutto ferro, è tutto ferro questo, eh. La vetrata a rubare sui verniciati d'ora, i libri. Tutte le barre della veranda, però deve stare aperto, non se ne vai in faccia, sto succedendo che brucia, eh. A me mi asciutto le guante di gomma, me le sono calate da mano, pari acido. E allora mi avevo messo quelli di farlo, quelli di tirami. Qui sì, mi ha mangiati, mi ha fatti secchi, tutti mi lavano, sta giù lampati da buco. Però non ribucca. I braccini dei bratti cazzato di mirasciuti, ci sono tutti fatti a bolle, mi là, fatti molti dilatati, buttati, mi neanche con la parte subito la mano. E voi si immagina che dunque hanno grevia, questa cosa brucia così, si scioglie la farmacia, ma immaginare, per sciogliere quanti hanno grevia, e fatti a piacere quanti pomi, però non di gomma, è così che... Capiraggio, ragazzi, come... domani me la metto entro e me lo componeggio. Sì. Ah, se vi sempre, dai. Ma hai dato un'idea, eh? Ma hai dato veramente un'idea. E vediamo un po', dai. Babbo. Ok. Ah, Mario, oggi hai sentito l'aereo, no? No, ragazzi, poi oggi non vedi, non ha già visto. L'ho acceso 5 minuti a ascoltare da qui per un casino e l'ha visto là, a chi non vede. L'ho acceso poco fa, perché andato finito, prima di farmi la luce, mi fumano la sigaretta. C'è la sabbia, mi dormire, ero su 45 maletti che riscendevo. Un baffato in bocca, un mi diceva a chi. fuori quelli di massa, no? Ha detto, boh, esce a mangiarlo, l'ho guardato dentro e c'erano dei biletti che mi toccavano il biletto, quello centrale diciamo, perché non era arrivata bene la plastica a dentro, alla gomma del piede. Allora l'ho risaldato nel fornello, come te va più giù, esci giù subito. Laggiù il cugliato di più, laggiù burrito e se la giudacca giù, più bene. E l'ho risaldato già maestro, dove scendeva, capito? E te lo disegni, dici, ti lo fa superare specialmente a ferro lucido. Poi però, se c'è qualche angolino, negli angolini lì te lo fai con la spazzola, per la sbarriuccia. Ma a tutti i passi, questa cosa, a sale mi sa, fa bruciare, fa morbidire tutto. No, ho copiato, me la disegni cosa, cosa hai detto? Ma ti ho detto, da che passo questa cosa, lo spavenciatore, a sale devo tassare, cattecate a morbidire tutto. Facevamo anche cancelli, no? Di quelli scorribili, portava le gratte, no? Quelle gratte già ripenne già fatte, noi saggiavamo giù li montanti, buccavo, buoniva le ruote, l'ho preso queste cartate qua e poi le saldavo quei pannelli quadrati, invece di bruciare a bullone li saggiavo sino a sbullone e gliene tenevo pure i quadrati, compreso. Mezz'oretta e tu la vai di me e vedi come si abbuggia e sciugli questa cosa e poi io prendevo un raschietto invece di falegnameria e lo lasciavo così e ne parava tutto intero, mica lo buoniato vecchio in falegnameria, se lo ilucidavo quasi a luci lo lasciavo lo e lo cucciolava in terra e quindi parava pure che lui lo fonde proprio. Perché quando buttano tu pigli il racchetto o un pezzolegno è per ovvero un pezzale, tu lo vedi, no? Si la che ti asciuga o no? Ho capito, va bene, va benissimo. Ok, bene mela, bene mela. Oh, yeah. Babbo. Domani ce la metto a passare un po', mi ha dato proprio un'idea, e alla macchina sono proprio fatta nel mio capo, questa cosa ne si è impressa allora, e mi pare la giuvizia, questo spernunciatore, a cosa, a mi figliore, giusto, fermi immobili da squariato. Se chi ferrice ne regalava questa cosa, ti passa il suo materiale, il prodotto, no? No, c'è per legno e per ferro quel prodotto lì, sono due tipi, per la vernice e di la legna e per la vernice di lo ferro, non penso che sia, tratta quello che fa il restauro, non penso che sia palo ferro, è per legno, visto. Anche noi gliela dici, guardiamo i bruciacilli, no? E la diamo sia a baro legno che sia a baro ferro, che sono sverniciato, capito? Ma che faceva gli anni, un po' li trattavo qui, sa di falegnameria, quando faceva cancelli, bici, su, stesso, da recuperare, da fare scorribili, da fare la pista, salga, e lui faceva l'altro cappannone, mi pira il ferro, a chi faceva mi pura il ferro. Ho capito. Ma boh, grazie alla. E 54. Ti lascio, dai. Definitivamente ci sentiamo domani. Grazie alla chiacchieratina, saluta in casa. Ho preso un mezzo di salata e ci sentiamo. Grazie per le... interrogativo, ma hai dato un'idea pure, veramente è buona. Ok, grazie. Ci sentiamo, buon proseguimento di serata. Ciao!